Agora in onda. Agora in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come. E io direi più libero di così, siete su Radio Onda Libera e siamo con Agora in Onda all'appuntamento del venerdì, le 10 e 7 minuti primi. Io do il benvenuto a Rocco Berardo. Buongiorno Rocco. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora ti sento perfettamente bene, chiaro, limpido e ti passo subito la parola a Marco perché ho un po' di cose da chiederti, ok? Perché in questa puntata ci occupiamo proprio di questa nuova legge che parla appunto del Biotestamento. Biotestamento, prego. Grazie Rocco, buongiorno e ben grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare alla trasmissione Agora in Onda. Entriamo subito nel tema, visto che ho illustrato, diciamo, per sommi capi in maniera veloce quelle che sono le principali novità introdotte dalla legge 219, e volevo ripartire con te, visto che tu sei un esponente che attivo, anzi diciamo subito chi è Rocco Berardo. Rocco Berardo è un esponente di l'associazione Luca Coscioni, che da anni si occupa della tutela dei diritti. È un'associazione sempre presente nel campo proprio dell'affermazione dei diritti di libertà, e noi lo trasmettiamo oggi da Radio Onda Libera, che è una radio appunto che già dal nome dice nel suo acronimo proprio che cosa vuole affermare. Oggi parliamo appunto di libertà e parto proprio dall'articolo 1 della legge 219, in cui il legislatore ha stabilito che la presente legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato. Allora Rocco, introduciamo questo tema dell'autodeterminazione. Ci vuoi spiegare in parole semplici, se possibile, considerata la complessità del tema, e per far comprendere ai nostri ascoltatori perché il nostro legislatore finalmente ha voluto introdurre nel nostro ordinamento il termine autodeterminazione? Sì, perché non c'era nessuna legge che determinasse in modo chiaro quello che già la Costituzione ci dice, che abbiamo la facoltà non accettare, di respingere qualsiasi trattamento sanitario che non consideriamo a noi confacente. Varie leggi sul consenso informato già indicavano una strada chiara, ma ovviamente le vicende tecnologiche e le vicende personali, tecnologiche per quanto riguarda la medicina, che oggi riesce a portare la vita di ciascuno di noi tendenzialmente fino alla possibilità di un tempo infinito, però in quali condizioni? Questo è il problema. E dall'altra parte l'autodeterminazione delle scelte, questi due elementi hanno fatto sì che ci fosse una domanda che tutti conosciamo, quella che appartiene a tanti cari che abbiamo visto morire: cosa succede alla fine della vita, chi sceglie? Ecco, noi abbiamo sempre considerato, nel rispetto della Carta Costituzionale e nel rispetto della libertà dell'individuo, che la libertà di scelta sia della persona, certo in confronto con il medico, ma l'ultima parola spetta alla persona. Ecco, su questo ti chiedo appunto, proprio perché nel dibattito sia politico ma anche giurisprudenziale c'è sempre stato il cosiddetto ruolo del medico, nel senso che ruolo ha in tutta questa nuova normativa il medico? Ma ovviamente ha il ruolo, come dire, di persona specializzata che conosce la medicina e che offre tutte le informazioni necessarie al paziente, che è persona, che alla fine potrà decidere se è bene per lui o no considerare quella cura come confacente alla propria situazione di vita. Ma pensiamo adesso banalmente a un medico che ci prescrive un medicinale, possiamo scegliere anche di non prenderlo. Ecco, ci sono invece delle non ci imporrà di prendere la pillola, no? ci offre la possibilità di prendere la pillola, ce la prescrive, la possiamo andare a comprare, ma non obbligatoriamente la dobbiamo assumere. Questo però creava dei problemi per quanto riguardava quello che dicevo prima, delle applicazioni tecnologiche che per esempio per malati molto gravi si attuano tenendolo in vita. Per esempio siamo partiti dal caso di Eluana Englaro e Pier Giorgio Welby, due casi molto simili ma diversi, e siamo arrivati al caso di DJ Fabo, che è ancora un terzo caso, ancora diverso da loro. Ti volevo interrompere proprio perché ci racconterai poi dopo anche l'esperienza recente, perché l'ordinanza della Corte d'Assise di Milano è del 14 febbraio, che cosa è successo per questo ultimo caso, no? Quello di noto come DJ Fabo, le cronache come DJ Fabo. Scusami se ti ho interrotto. No, dicevo, si parte da un concetto principale. Quello che Pier Giorgio Welby diceva: posso io decidere che la mia respirazione artificiale possa essere interrotta? E Welby diceva: sì che lo posso decidere, soltanto che mi trovo di fronte a medici che mi dicono che nel momento in cui mi staccano il ventilatore, siccome io perdo conoscenza, lo stesso medico per il giuramento di Ippocrate, per una storia della medicina, per come dire il bene giuridico vita, si trova nel come dire nell'obbligo di rimettermi la respirazione artificiale, e quindi io non potrò mai decidere qual è il trattamento che voglio o meno. Ovviamente il testamento biologico significa anche questo, perché quando noi non saremo più in grado, capaci di intendere e di volere, perché in coma, perché in altra condizione, diciamo in modo anticipato, e questo serve la legge che mette nero su bianco, ma che altre sentenze della giurisprudenza, a partire dai casi Welby e Englaro, hanno ben definito, possiamo dire in modo anticipato, come vi dicevo, le nostre disposizioni cosiddette anticipate di trattamento. Quindi, cioè, diciamo quello che vogliamo e quello che non vogliamo in determinate condizioni. Quindi, per quanto questo è il grande, diciamo, è il grande risultato, ma la grande novità che siamo riusciti a ottenere attraverso il testamento biologico. Allora, scusami Rocco, quindi le disposizioni anticipate di trattamento, come accennavo anche poc'anzi, servono alla persona che è attualmente in grado di intendere e di volere di poter disporre per il futuro, qualora dovesse avere una malattia o un qualcosa che possa cagionare la propria salute, e nominare una persona fiduciaria che possa mantenere la sua volontà qualora la persona stessa, affetta da una malattia, da una prognosi infausta, perdesse la capacità di intendere e di volere. È corretto? È giusto. Il cosiddetto fiduciario, la legge auspica, non obbliga direttamente a nominare un fiduciario o due fiduciari, ma è auspicabile che ci sia. Perché è auspicabile che ci sia? Intanto perché, diciamo, tiene per sé anche lui un testamento biologico e diciamo può essere colui che lo conserva, ma soprattutto, ecco, la funzione del fiduciario può interpretare, perché ovviamente non tutte le situazioni possono essere identiche a quelle che prospettiamo oggi per un domani, no? Certo. Ci potremmo trovare in condizioni che non sospettiamo, non tutto è perfettamente chiaro. Il fiduciario, che comunque conosce le intenzioni della persona che gli ha dato questa fiducia, può diciamo interpretare il testamento biologico, le volontà della persona, e diciamo offrire una risposta in più al medico laddove non fosse chiara la scelta nel testamento biologico. Quindi un aiuto per poter attuare, qualora ancora, scusa la ripetizione, attuali le stesse disposizioni di trattamento, perché anche la scienza medica può fare dei progressi, e quindi le disposizioni che faccio oggi magari fra 10, 15, 20 anni potrebbero essere superate, giusto? Certo, certo, anche perché ci possono essere delle tecnologie mediche che potrebbero portarmi a una condizione che migliore di cui migliore di quella che mi prospettavo un tempo. Nella prospettiva di essere malato, di stare in una certa condizione, nuove tecnologie possono consentirmi di vivere in un modo diverso da quello che pensavo. Quindi il fiduciario può intervenire laddove vi fosse, ecco, la necessità di una interpretazione delle mie volontà. Allora, alla luce delle nuove tecnologie, la persona che volesse proporre queste disposizioni anticipate di trattamento, in che modo può farle? Diciamo, oggi Marco Mampieri vuole fare una disposizione anticipata di trattamento, in che modo può fare questo testamento, diciamo così, futuro della propria testamento biologico? Allora, dopo aver compilato il biotestamento, hai due opzioni: o trasformarlo in atto pubblico, presentandolo a un funzionario pubblico designato dal comune o a un notaio, oppure puoi fare una scrittura privata autenticata sempre da un notaio, da un pubblico ufficiale, e devi assicurarti di fare due copie autenticate, così da conservarne una personalmente e poi utilizzare l'altra per una modalità possibile di deposito. L'altra si può consegnare l'altra per depositarla al comune, laddove ci fosse un registro. Molti comuni hanno istituito un registro fino ad oggi, pur in assenza di legge. Ecco, su questo faccio riferimento alla circolare numero 1 del 2018 da parte del Ministero dell'Interno, che stabilisce, proprio perché deve essere facilitata la possibilità di poter accedere alle disposizioni anticipate di trattamento, non c'è bisogno, almeno secondo il Ministero, che i comuni si dotino di un apposito registro, ecco, quindi non ci deve essere rifiuto da parte dell'ufficiale d'anagrafe perché non è stato istituito il registro. Certo, questo per quanto riguarda l'autentica, che poi dovrebbe registrare. Ho dei dubbi sulla conservazione poi, ecco, dello stesso documento. Ecco Rocco, io proprio di questo ti volevo parlare, infatti credo, io da quello che mi ha detto Marco sulla legge, ha dato una spiegazione prima che riguarda questa legge, non c'è un buco secondo te? Cioè non manca un registro nazionale? Non era meglio mettere un registro nazionale unico che garantiva uniformità per la reperibilità e privacy una volta fatto il testamento, visto che potrebbe, ecco, succedere che nei comuni, come spesso capita, non so a Roma ma qui da noi spesso capita, che fanno un po' lo scaricabarili gli uffici? Certo, no, è chiarissimo quello che dici e sono d'accordo con te. Noi abbiamo fatto una proposta che semplifica tutto, anche perché la burocrazia a volte, dopo che ci sono delle leggi anche che si avvicinano al cittadino, poi impedisce che queste possano essere utilizzate. Allora, per semplificare, noi abbiamo fatto una proposta che è già prevista in parte dalla legge. Cioè, noi oggi tutte le regioni si occupano del servizio sanitario nazionale attraverso il servizio sanitario della regione, regionale, e tutti noi abbiamo la carta sanitaria, quello che viene chiamato anche in modo digitale il fascicolo elettronico sanitario, che è praticamente istituito in ormai quasi tutte le regioni. In alcune c'è un po' di ritardo, ma sta per essere attivato in tutte le regioni. Ora, quello che chiediamo ai presidenti delle regioni che sovraintendono alle sanità regionali è che ci sia la possibilità, all'interno del fascicolo sanitario elettronico che riguarda ciascuno di noi, la nostra storia clinica che è privatissimo, ci possiamo entrare solo noi, di poter inserire lo spazio del testamento biologico. Perché? Perché il testamento biologico molto spesso serve per casi di urgenza. Certo, certo. E quindi quando tu ti trovi di fronte a una situazione grave all'interno di un ospedale, magari non all'interno dell'ospedale della tua città, ma di un'altra regione, ci deve essere la possibilità da parte del medico, dell'ospedale di quella regione, di risalire alle tue volontà, che non è che devi andare a cercare in qualche carta burocratica nel tuo comune, ma in modo digitale si può arrivare direttamente al tuo testamento biologico, appunto attraverso poi quello che è la tessera sanitaria. Ecco, appunto, stai parlando della tessera sanitaria praticamente. Sì. Elettronica. Elettronica, che in alcuni stati funziona già. In alcune regioni già funziona, e funziona molto bene. Anche nel Lazio è stata attivata, devo dire che non ho ancora verificato il funzionamento. Uh-huh. Il problema è che tutte quante le regioni che stanno attivando il fascicolo sanitario elettronico, per cui noi andiamo sul computer e mettiamo con l'accesso SPID digitale e quindi con il riconoscimento della nostra identità alla nostra situazione del fascicolo, ci entriamo solo noi noi chiediamo questo ai presidenti delle regioni: inserite la possibilità di mettere uno spazio all'interno di questo spazio digitale dove inserire il testamento biologico, proprio perché ci sia la possibilità per tutti, soprattutto per i medici che si dovessero trovare di fronte a una situazione grave in cui versiamo e dover decidere quale è la nostra volontà scritta nel testamento biologico, di risalire alle nostre disposizioni attraverso lo spazio digitale del fascicolo sanitario elettronico. Tra l'altro, questo vabbè è un problema di digital divide del nostro paese, che è molto in ritardo, troppo in ritardo. Spesso non c'è interpolarità tra i vari servizi sanitari regionali, per cui alcuni usano dei sistemi, altri tipo di sistema, quindi a volte non si parlano, ma comunque si sta tentando di superare anche questa parte. L'importante è che nel più breve tempo possibile, ed è questa la proposta che abbiamo fatto ieri in conferenza stampa come associazione Luca Coscioni, i presidenti delle regioni si adoperino, non ci vuole tanto, perché si è inserito lo spazio del testamento biologico nel fascicolo sanitario elettronico, e supereremo tutte quelle questioni di cui abbiamo parlato poc'anzi, l'autentica, il registro comunale. Esatto, speriamo Rocco che questo possa avvenire in maniera celere da parte delle regioni e quindi ci sia un'uniformità anche su tutto il territorio nazionale. Ti volevo chiedere invece, visto che purtroppo il tempo stringe, alcune considerazioni rispetto invece al caso noto all'opinione pubblica come DJ Fab, e soprattutto rispetto al capo di imputazione rivolto a Marco Cappato, leader dell'associazione Luca Coscioni, e il rinvio da parte della Corte d'Assise di Milano con l'ordinanza del 14 febbraio alla Corte Costituzionale su questo tema dell'aiuto, istigazione e aiuto al suicidio, rispetto a quello che abbiamo fatto all'inizio della nostra trasmissione rispetto alla cosiddetta autodeterminazione. Sì, allora la Corte d'Assise di Milano si è già pronunciata l'altro ieri in merito all'istigazione, alla parte dell'istigazione, cioè Marco Cappato ha detto alla Corte d'Assise di Milano non ha istigato DJ Fabbo al suicidio. Tuttavia, dice la Corte d'Assise di Milano, riscontro ed è emerso nel dibattimento che Marco Cappato, che in effetti poi si era autodenunciato, quindi aveva la rappresentazione chiara di quello che stava avvenendo, ha violato la seconda parte dell'articolo 580 del codice penale, che si richiama all'aiuto al suicidio. Ora, l'aiuto al suicidio, come descritto dal 580 del codice penale, non è un mero aiuto all'esecuzione, no? Ma è un aiuto all'esecuzione in qualsiasi modo. E allora il presidente della Corte, la Corte d'Assise di Milano, ha detto: ma questo qualsiasi modo quanto è grande? Cioè mi devo trovare nella condizione di dover imputare tutte quante le persone che hanno concorso in modo frammentario a tutta questa storia di DJ Fabbo, che si è conclusa grazie al trasporto poi fondamentale di Marco Cappato dall'Italia alla Svizzera. Devo trattare tutti in egual modo, soprattutto aggiungo, perché la volontà di DJ Fabbo era quella proprio di aver già espresso chiaramente la propria autodeterminazione rispetto alla scelta sul fine vita, giusto? Certo. Su questo è importante, perché per questo la Corte d'Assise di Milano ha ritenuto di dover demandare, giusto, se non vado errato? Sì, certo. Dunque, l'aiuto, il suicidio che è avvenuto, cioè diciamo la forma, una particolare forma di eutanasia che in Svizzera è sotto la forma del suicidio assistito, ovvero non c'è sotto controllo medico ci si autosomministra la dose del farmaco che ti porterà alla morte, però lo fai da solo, è per questo che si chiama suicidio assistito. Dice la Presidente della Corte, la Corte d'Assise di Milano, nell'ordinanza che rimanda alla Corte Costituzionale il giudizio di legittimità su questo articolo, si domanda: ma se DJ Fabbo aveva la volontà di autodeterminarsi nel modo in cui sappiamo, in modo espresso chiaramente più volte, anche diciamo trovandosi in una situazione in cui se non veniva rispettata la sua volontà di farlo, iniziava uno sciopero tra virgolette della fame e della sede, non voleva più mangiare, parlare, bere attraverso i mezzi che gli erano a lui consentiti, posso definire questo un aiuto al suicidio di una persona che aveva tutta questa volontà? Posso condannare Marco Cappato o chi si trova nelle condizioni di Marco Cappato perché una persona si vuole autodeterminare in quel modo? Ecco, ci si pone di fronte a questo problema anche perché sia la Carta Costituzionale, ma anche diciamo la Carta Fondamentale dei Diritti dell'Uomo dell'Unione Europea e tutte le sentenze che ci sono state nel tempo e sono state citate lungamente, sì. È durata tantissimo l'ordinanza, la lettura dell'ordinanza, ci dicono che su questo c'è un problema di interpretazione, e quindi dice alla Corte Costituzionale: dimmi se ancora questo articolo 580 valido, perché comunque scritto in epoca diciamo del periodo fascista nel 1930, che era un'epoca molto diversa da quella di oggi. Noi ci troviamo oggi, come abbiamo detto, con situazioni tecnologico-mediche totalmente differenti e ci sono dei bilanciamenti di diritti costituzionali che vanno tenuti in conto, essendo intervenuta poi nel 1948 la nostra Carta Costituzionale, che diciamo è gerarchicamente superiore a tutte le altre leggi e evidentemente anche al codice Rocco del 1930. Quindi, ponendosi di fronte a tutte queste situazioni, la Corte di Assise di Milano, per la prima volta nella storia, sottopone al giudizio della Consulta la legittimità dell'articolo 580 nella parte in cui parla di aiuto al suicidio. È evidente che l'implicazione, quindi sarà di nuovo la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi, quindi la Corte d'Assise ha aperto questo interrogativo sulla quale la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi, speriamo dando una lettura chiara e univoca rispetto anche a quello che è la nuova legge introdotta nel nostro ordinamento con la legge 219, in cui forse probabilmente anche nei lavori preparatori è stata introdotta la cosiddetta eutanasia indiretta omissiva per rifiuto alla nutrizione artificiale e privazione dei sostegni vitali, e quindi consentire una morte dolce attraverso la sedazione profonda e la terapia del dolore. Ti chiedo, scusa perché siamo in conclusione, avremmo dovuto parlarne per molto più tempo, ma purtroppo il tempo finisce. Quali sono le battaglie dunque che porterete avanti con l'associazione Luca Coscioni e quali impegni vi aspettate dal prossimo Parlamento, sempre in tema di libertà e diritti civili? Ma intanto, come vi dicevo prima, la necessità per quanto riguarda il testamento biologico di avere una risposta dei presidenti delle regioni affinché inseriscano nel fascicolo sanitario elettronico la possibilità di inserire il proprio testamento biologico. Dall'altra, per quanto riguarda invece la campagna sull'eutanasia legale, che è una proposta di legge di iniziativa popolare che su cui abbiamo raccolto oltre 100.000 firme, abbiamo depositato in Parlamento, la nostra lotta sarà perché il nuovo Parlamento finalmente discuta di quella proposta che hanno sottoscritto così tanti cittadini e che, come sappiamo, la maggioranza dei cittadini in Italia, ce lo dicono i sondaggi, vede in modo favorevole per regolarizzare, regolamentare l'eutanasia, che in realtà in Italia esiste in una qualche forma, che è quella clandestina, e quindi non vi è nessuna regola. Noi vogliamo che ci sia una regola e che ciascuna persona abbia il diritto di scegliere in modo chiaro sul proprio fine vita. Grazie Rocco, grazie del tuo intervento nella nostra trasmissione Agora in Onda. Se avremo occasione ci potremo sentire anche più avanti per vedere l'applicazione di questa nuova legge e soprattutto anche delle battaglie che l'associazione sta portando avanti. Io vi saluto Stefano, ringrazio l'emittente Radio Onda Libera che ci dà sempre la possibilità di parlare di temi anche come spinosi anche come questi, perché attendono alle libertà civili e alle libertà fondamentali anche da punti di vista soprattutto su temi etici importanti che possono toccare le sensibilità diverse di persone. Continueremo a farlo con questo spirito anche la prossima settimana, in cui parleremo di un altro argomento, e io vi saluto, ringrazio Rocco Berardo dell'associazione Luca Coscioni per essere stato con noi questa mattina, lascio la parola a Stefano per i saluti finali. Noi ci vedremo su questa trasmissione la prossima settimana. Grazie ancora. Grazie Marco, grazie Rocco, ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Alla prossima allora, grazie. Bene, io vi do appuntamento invece a lunedì mattina a partire dalle 7 con Agora in Onda, naturalmente venerdì prossimo